Radio 24 Reportage. Burkina Faso, volontariato tra i rifiuti, di Daniele Morini. Ouagadougou, Burkina Faso. Viaggio nella capitale dello Stato dell'Africa occidentale, dove 1.300.000 africani ogni giorno vivono nella speranza di un futuro migliore. Una città viva, piena di suoni e colori, ma afflitta da mille problemi. La povertà si fa strada, l'occupazione arranca, ma c'è una nuova emergenza da affrontare. Come spiega Sidi Mahamadou Cissé, responsabile ambiente del comune di Ouagadougou. La ville de Ouagadougou è... Il problema principale che affligge la capitale del Burkina Faso, come le altre grandi città africane, è quello dei rifiuti solidi. Ogni anno dobbiamo fare i conti con tonnellate di spazzatura prodotta in città che minaccia l'ambiente. Per fronteggiare questo problema il comune si è organizzato con tante soluzioni. Abbiamo messo in piedi una raccolta porta a porta dei rifiuti per evitare che i sacchetti di spazzatura siano abbandonati per strada. E due giorni alla settimana le donne delle Brigate Verte con scopa e paletta puliscono le vie principali della città. Poi c'è la discarica organizzata di Ouagadougou, dove confluiscono i rifiuti raccolti in città con i camion. E proprio vicino alla discarica c'è il centro di valorizzazione dei rifiuti plastici, il nostro fiore all'occhiello, avviato grazie all'intervento dell'LVA. La LVA, Associazione di Volontari Laici, è un'organizzazione non governativa che opera in progetti di cooperazione per lo sviluppo nei paesi africani. Emile Ouerdraogo, il responsabile LVA della cooperazione decentrata a Ouagadougou, ha lavorato ad un progetto in città che ha aperto le porte alla speranza di un ambiente più pulito e a nuove opportunità di lavoro per i Burkinabè della capitale. La LVA mena attualmente... La LVA, insieme al comune, sta realizzando interventi per migliorare l'ambiente urbano di Ouagadougou. Dal 2003, quando è iniziata questa collaborazione, è stato avviato anche un centro di valorizzazione della plastica dove lavorano 30 donne burkinabè. La plastica. Ora la minaccia è l'inquinamento ambientale, che arriva da quella che tutti avevano benedetto come una risorsa, un'eredità di quel progresso inseguito affannosamente da tutta l'Africa. Una risorsa con cui da queste parti è cresciuta solo una generazione, come spiega Emile. La plastica è arrivata in Burkina Faso solo negli anni Ottanta ed è stata una rivoluzione nella vita di tutti i giorni, dagli oggetti d'arredamento come sedie e tavoli fino agli utensili per la cucina ed il lavoro ai contenitori più vari. La plastica rappresentava il nuovo benessere a basso costo, ma solo recentemente ci siamo accorti dell'impatto negativo dei rifiuti solidi plastici per l'ambiente, ma non solo, anche per l'allevamento e per la salute umana. Sacchetti di plastica abbandonati ovunque, flaconi vuoti pericolosamente a contatto con i terreni, che da queste parti non brillano certo per fertilità. Il Ministero dell'Ambiente del paese africano ora vuole correre ai ripari. Kerr Barthelemy, il dirigente per la prevenzione dell'inquinamento, indica la strada da seguire. Qu'est-ce que le ministère fait? Il nostro Ministero dell'Ambiente sta combattendo il problema dei rifiuti plastici attraverso la sensibilizzazione di bambini e adulti. Vogliamo insegnare loro a non gettare più per strada i sacchetti di plastica, perché possono essere riutilizzati, evitando di inquinare l'ambiente, così come i contenitori in plastica, perché possono essere riciclati. Ci stiamo impegnando in questa campagna soprattutto tra i più giovani e con i bambini nelle scuole. Il Ministero sta anche incoraggiando le associazioni come LVA, che attuano progetti che riguardano la salvaguardia dell'ambiente, e abbiamo in piedi un programma di rafforzamento delle competenze nei comuni per insegnare una corretta gestione dei rifiuti, in particolare di quelli plastici. Ma intanto, qua e là, nei distretti di Ouagadougou, sono spuntate discariche abusive. Enormi distese di rifiuti, spesso ai margini di zone di pascolo di bovini, asini ed altri animali. Da queste parti spesso capitano anche bambini, attratti dai colori vivaci dei flaconi e degli altri oggetti in plastica sparsi tra i rifiuti. Che mi va? Che dicono? viene. Cristina Daniele, la volontaria dell'LVA che segue il progetto sui rifiuti plastici, non ha dubbi, i cartelli servono a ben poco. Siamo nel comune di Ouagadougou, nel settore 29. C'è un terreno che non è adatto alle costruzioni a causa dell'esportazione della terra e della sabbia fatta dalla popolazione per utilizzare nelle costruzioni. Nonostante gli sforzi fatti dal Consiglio Municipale per mettere appositi contenitori e per mettere cartelli che impongono il divieto di gettare, di abbandonare i rifiuti qua, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione a questo terreno. Un terreno abbandonato così degradato rappresenta un problema di ordine igienico e sanitario, ma rappresenta anche un problema per gli animali che spesso, soprattutto possono essere asini, possono essere altri caprini o bovini, vengono a mangiare in queste zone, spesso ingurgitando sacchetti che possono provocarne la morte. Tra i rifiuti che si trovano sparsi un po' ovunque a Ouagadougou ci sono anche i pneumatici. Il traffico motorizzato della città, prevalentemente a due ruote, produce una grande quantità di gomme che vengono abbandonate nell'ambiente. Sissé, del comune di Ouagadougou, aveva individuato una soluzione sulla quale però il settore ambiente ha dovuto ben presto fare marcia indietro. Ouagadougou è piena di pneumatici. Li potete vedere ovunque, nelle strade come nelle discariche. Non molto tempo fa avevamo pensato al recupero di questi scarti per poi bruciarli in grandi quantità come combustibile nelle cementerie dove si fabbrica il clinker. I nostri addetti nelle discariche avevano avviato una vera e propria raccolta selettiva. Ad un certo punto però ci siamo accorti che questa termovalorizzazione non poteva essere fatta a Ouagadougou, ma solo in un'altra città del paese. Quindi per il momento nulla di fatto e queste gomme restano ammassate in grandi cumuli ai margini delle discariche, in attesa anche qui di trovare una soluzione. C'è chi in Burkina Faso si preoccupa del futuro e della salute dell'ambiente. La nuova frontiera sembra essere quella di cercare di trasformare ciò che ora appare come un rifiuto ingombrante, inquinante, portatore di morte e infertilità dei terreni, in un bene positivo, in qualcosa che possa essere trattato come una vera e propria risorsa. Les objets en plastique. La plastica, in particolare quella dei rifiuti, ha infettato e invaso la vita quotidiana delle popolazioni burkinabè. Dovunque andiamo, nei quartieri, come in mezzo alla natura, troviamo plastica. Nei mercati, come davanti alle chiese, fuori dalle case, sui bordi delle strade, ci sono sacchetti di plastica e scarti ovunque. Ma prima di tutto, i rifiuti plastici abbandonati in mezzo alla natura destano preoccupazione. Sono una quantità enorme, tonnellate e tonnellate. Eppure qualcosa sta cambiando. Nella sensibilità della gente sta cominciando a farsi strada la consapevolezza che, ad esempio, raccogliere la plastica, invece di gettarla, non è solo un favore reso all'ambiente, ma diventa una fonte di guadagno. Basti pensare che dal 2005, da quando esiste il centro di valorizzazione della plastica, i burkinabè ne hanno portate e vendute al centro oltre 250 tonnellate. La sensibilità verso un ambiente pulito si fa lentamente strada, dai villaggi al centro di Ouagadougou. La capitale è stata premiata due volte come città più pulita d'Africa. Ad oggi sono molti i segnali che fanno pensare che la strada intrapresa è quella giusta. Dalla voce di Sidi Mahamadou Sissé, uno sguardo alle prime azioni concrete di salvaguardia dell'ambiente urbano e naturalistico di Ouagadougou. Ci sono tante iniziative che contribuiscono a tenere la nostra città più pulita. Abbiamo organizzato una raccolta delle immondizie fatta con i camion da nettezza urbana tradizionali che sono stati donati dall'Italia. I nostri addetti caricano le immondizie nei vari punti di raccolta e le portano nella discarica comunale. Nelle zone periferiche della città, inoltre, funziona una raccolta dei rifiuti porta a porta con diverse squadre di 3 persone che girano per le case una volta a settimana con un carretto trainato da un asino. È una iniziativa che può sembrare artigianale, ma per noi è all'avanguardia perché permette di mettere in pratica una raccolta organizzata nelle zone meno urbanizzate. La gente ha reagito bene, oramai quasi tutti ci aspettano davanti alla porta con il sacchetto dei rifiuti pronto. Un altro importante passo avanti è la nostra Brigate Vert, un'associazione di centinaia di donne che ogni martedì e giovedì con scopa e paletta battono sin dall'alba le vie principali di Ouagadougou, portando via minuziosamente ogni rifiuto. Da questa associazione provengono anche le donne che abbiamo scelto, privilegiando quelle con situazioni più difficili, per il progetto del Centro di Valorizzazione della Plastica. E proprio dal progetto avviato da Elvia, un segnale di speranza, visto che l'esperienza che stiamo per raccontare è una goccia nel mare, ma anche un modello che già molti nel continente nero vogliono imitare. Perché in mezzo ai rifiuti può attecchire un'opportunità di lavoro, come una mano tesa verso il benessere. Può fiorire la speranza per un ambiente più pulito, un vantaggio per il presente, guardando al futuro.